Destinazione Sud è un purpurì di tantissime cose, cioè proiezioni, ci sono mostre d'arte, di fotografie e pittura, concerti dal sud del mondo, quest'anno abbiamo anche un griot burkinabè, ci sono incontri con i registi, e workshop con le scuole, insomma veramente chi più ne ha più ne metta, insomma un'eterogeneità di linguaggi, alla fine per parlare di tematiche che ci sono care come appunto diritti negati, parità di genere, migrazioni, questi sono un po' i focus di quest'anno, Nicaragua, Siria, Burkina Faso, il tutto un po' per parlare di sviluppo sostenibile, insomma. C'è una frase che mi ha colpito molto nella presentazione del festival, che forse anche per chi non lo conosce può dare ancora di più la dimensione, no, del vostro approccio. Si parla di interdipendenza del mondo. Sì. Esatto, perché appunto noi puntiamo i riflettori a sud, però diciamo per dare un'idea di quanto poi siamo tutti veramente interconnessi e collegati, insomma quello che succede nelle foreste dell'Amazzonia o nei villaggi dell'India non è poi così lontano da noi, insomma il benessere di quei popoli, di quelle comunità, l'evoluzione verso uno sviluppo sostenibile ci riguarda tutti, insomma arriva anche a noi, quindi nord e sud interconnessi per evolverci tutti insieme, ecco. Ecco, chi pensa di chiudersi nei propri confini nazionali, quindi insomma sbaglia di grosso. Eh sì, infatti. Diamo qualche spunto su appunto alcuni eventi che ci saranno, alcuni ovviamente raccontare tutto il programma, non abbiamo abbastanza tempo, però cosa ci vuoi segnalare? Oh mamma mia, tutto? No, vabbè, allora dai, ti do giusto 2-3 titoli per incuriosire un po' gli eventuali visitatori. Già domani, secondo me è imperdibile la proiezione di Dancing with Monica, anche perché avremo Anja Dalhoff, che è la regista danese che è arrivata oggi da Copenaghen per presentare il film, rientra diciamo nel focus sulla parità di genere, per cui ci saranno diversi documentari legati allo sfruttamento insomma della donna vittima di società patriarcali o di appunto sfruttamento sessuale, e questo è un film veramente strepitoso che parla appunto di una giovanissima ragazza colombiana che inizia a filmarsi quando inizia a lavorare come sex worker, e per 25 anni produce questi video di se stessa che Anja Dalhoff poi intreccia magistralmente con le sue interviste, ne viene fuori un lavoro veramente unico. Poi per esempio sabato sera è anche imperdibile, perché abbiamo O Father Sansón, che è un film stravincitore di un sacco di premi, è anche stato candidato come miglior documentario agli Oscar, ed è questo film del siriano Talal Berki, che per documentare la vita quotidiana in una famiglia islamista radicale si finge sostenitore della causa jihadista ed entra per 2 anni, convive con questa famiglia e ne riporta un quadro veramente assurdo, insomma ci fa conoscere una dimensione a noi totalmente sconosciuta, quindi veramente imperdibile. Poi c'è il focus sul Nicaragua, che è anche molto bello, ci saranno anche i registi Pietro Belfiore e Martina Rosa di Aneagua, c'è Eredera del Viento, che è uno spaccato sulla rivoluzione sandinista molto molto bello. Burkina Faso, per chiusura, è anche un focus interessante, perché appunto abbiamo la proiezione di Burkinabè Rising, proprio la domenica sera alle 21, e a seguire appunto il concerto di questo griot burkinabè con questo trio di afro jazz che insomma chiude poi il festival, si festeggia, si finisce. Così, poi ce ne sono tanti altri, però mi fermo qui? Sì, sì, perché appunto se no spoileriamo tutto. Esatto. E non abbiamo ancora detto che siete gemellati con il Festival Bolognese, terra di tutti i film festival. Certo. E come fare per scoprire il programma se qualcuno magari ha intenzione di passare il weekend in questo entroterra senese molto bello? Sulla nostra pagina Facebook, Destinazione Sud, c'è tutto il dettaglio del programma. L'ingresso è libero, non ci sono biglietti, si può visitare le mostre, i concerti e guardare tutti i film liberamente. Radicondoli è un paese, tra l'altro, che merita di essere visitato, perché siamo qui sulle colline senesi, un borgo di poche anime ma molto agguerrite, e è bello il festival perché ha una dimensione molto itinerante, quindi si passa dal teatrino, che è una chicca, al nostro teatro dei risorti dove ci sono le proiezioni, ai vari locali del paese che sono tutti coinvolti con mostre, concerti e apericene, insomma si mangia, è una dimensione anche allegra se vuoi.